11.03, bentornati all'ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prosegue la mattinata informativa. Come ogni mercoledì mattina torna in onda Parole e Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. Quindi un saluto a tutti e tutte voi che siete in ascolto, da Francesca, da Costanza e da Anna. Vi ricordiamo come sempre i contatti, quindi per il telefono fisso potete chiamare lo 011 249 5669, mentre per gli sms potete scrivere al 346 667 3263. Noi vi lasciamo ancora con un po' di musica, poi vi presentiamo la puntata di quest'oggi. Was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, babe? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme, they really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. And it's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How's it, G? Tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Allora, andiamo a presentare la puntata di oggi. Gli argomenti che toccheremo, sicuramente sentiremo la nostra corrispondente preferita Martina da Parigi, che ci racconterà la giornata di ieri, una giornata appunto segnata da un'imponente manifestazione che ha attraversato le vie di Parigi e non solo. E per quanto riguarda invece, diciamo, più il contesto italiano, andremo a sentire una docente dell'Università di Pisa per commentare un articolo che è uscito su Roars nei giorni scorsi, che si intitola "Un antidoto al feticismo dell'eccellenza, la carta per l'ineccellenza", che presenta appunto questo documento redatto da un gruppo di ricercatori di un'università di Bruxelles. Ma di tutto questo appunto parleremo fra pochissimo, per cui non vi anticipo troppo. Torniamo all'Università di Torino, andremo a parlare della situazione del calo delle iscrizioni delle classi sociali più deboli all'interno del nostro Ateneo. E vedremo poi se riusciamo a metterci in contatto, insomma, con Dalla Falchera, dove in questi giorni sono stati giorni di mobilitazione per il quartiere. Ieri c'è stata un'occupazione all'ATC da parte delle famiglie, che avevano occupato degli alloggi vuoti proprio in Falchera a seguito degli sgomberi della giornata di lunedì. Questo allora è più o meno quanto, noi vi lasciamo ancora un pezzo, poi iniziamo subito con le dirette. We know each and every day fights come, remember. This life is final destination. You're trying your best to make it. They say be patient, but you know you're cheating. Death is chasing. Heart beating, pulse racing, but I keep the pacing. Trained to be the best and beat the best by the Gracies. Grappler, spectacular, rap for sport or altercation. In self-defense, we hear my muff for tailored alteration. With fire starters, leaving stages up in flames. Then again with firefighters, spraying at whatever's blazing. Crazy ways to express and pass information. Daily making the best of bad situations. We fight to win in whatever time. Type of test we're facing. Hip hop came while they were underestimating. Amazing grace, how sweet the sound. That's what I was raised in. Within the crack, and gangs flourished under Ronald Reagan. Life insurance for kids. Undertaker's waiting. Earth is purgatory here between the pearly gates and Satan. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night and in the shadows when the daylight comes. Remember, you can't hide, you can't run. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run from the truth. We know each and every day fights come, remember. You can't hide, you can't run. Yeah, yeah. I stay relevant. Only person I stand in the shadow of is evidence. Last page I left off a good look. This ain't the next chapter, it's a whole new book. About to steal the game, I'm a whole new crook. Baking up that fire, I'm a whole new cook. Get your whole shit took. Cali's back under the sun, right, so here. You can't hide and you can't run from the truth. Some ain't convinced, so they decide to try me. Like I give a fuck, we live from India, Ari. They got spies and cameras and trailers. Seen them setting up though, we on camera surveillance. On to me, I'm on to you, it's no mystery. Better think fast though, the future just with history. It's where the plot thickens, regardless of wealth. It's the worst person to run from yourself, darling. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. Late night and in the shadows when the daylight comes, remember. You can't hide, you can't run. Any day your last day might come, so you can't hide, you can't run. From the truth, we know each and every day fights come, remember. Allora, sono le 11:11, iniziamo con gli approfondimenti per la puntata di quest'oggi. Lo facciamo con Maria Chiara Pievatolo, che è docente all'Università di Pisa, al Dipartimento di Scienze Politiche, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, ci sente? Buongiorno, mi sento bene. Ecco, allora, con lei volevamo un po' commentare questo articolo che è uscito nei giorni scorsi su Roars, un sito insomma da cui spesso attingiamo, ecco, per le notizie, che titolava "Un antidoto al feticismo dell'eccellenza, la carta per l'ineccellenza", che parte appunto da questo documento che è stato redatto da un gruppo di ricercatori dell'Università Libre de Bruxelles, che appunto mette un po' a critica tutto quello che è il sistema delle pubblicazioni che investe appunto chi fa ricerca all'interno dell'università. Le chiederei magari appunto in apertura di spiegarci un po' come è nato questo documento, questa carta, un po' appunto quali sono i punti che va a toccare. Dunque, prima di tutto è frutto di un'iniziativa che nasce abbastanza bizzarramente in un'università privata, perché l'Università Libre de Bruxelles è un'università privata di antica tradizione, quindi qualcosa di simile alla Cattolica di Milano, e nasce fra ricercatori di scienze umane e sociali. Ecco, probabilmente proprio il fatto di lavorare in un'università privata gli ha fatto provare sulla loro pelle gli effetti di quella che si può chiamare iperorganizzazione della università, vale a dire la sottrazione della valutazione della ricerca che dalla nascita della scienza moderna e anche prima, diciamo dall'Accademia di Platone, qualche cosa che viene fatta nella libera discussione fra gli scienziati e i ricercatori, ecco, la delega alla valutazione della ricerca a entità esterne, governo da una parte e dall'altra aziende private, quindi multinazionali dell'editoria, aziende specializzate nei ranking universitari, aziende specializzate nella bibliometria. Le aziende private naturalmente lavorano a scopo di lucro, quindi con interessi che sono molto diversi da quelli della ricerca scientifica, che dovrebbe essere finalizzata a avvicinarsi alla verità, se mi permettete questa grossa parola, approssimarsi alla verità, e b, aiutare la società a pensare autonomamente, aiutare le persone a emanciparsi intellettualmente e a ragionare da sé. Allora, cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno semplicemente scritto un elenco apparentemente prolisso, che però nel momento in cui io l'ho tradotto ho visto che ha avuto un'enorme e inaspettata quantità di accessi, nel quale sostengono che cosa? Sostengono che negli spazi dell'università attuale, che è un'università aziendalizzata e valutata dall'esterno, è tuttavia possibile ricostruire, facendo delle piccole azioni di resistenza, ricostruire e propagandare lo spirito della ricerca inteso in questo senso, quindi un libero uso pubblico della ragione finalizzato a approssimare noi stessi e la società, diciamo così, a qualcosa di meno falso, perché in verità è una parola grossa, e finalizzato a aiutare le persone a pensare da sé. Ecco, per fare questo che cosa si deve fare? Beh, si deve usare l'insegnamento non come qualche cosa che serve per essere venduto a clienti, studenti infantilizzati, ma come un elemento che serve sia per fare ricerca, sia per formare dei compagni di ricerca e di pensiero, qualsiasi sia il mestiere che faranno. È importante che gli studenti escano dall'università come degli adulti emancipati e non come dei consumatori o dei clienti. Usare la ricerca come qualche cosa che serva non semplicemente a interessi aziendali, ma a interessi sociali, a interessi umani e a interessi più ampi dell'utile immediato. Forse vale la pena ricordare che quando Galvani e Volta facevano i loro esperimenti sull'elettricità non avrebbero mai immaginato che l'elettricità sarebbe stata utile perfino per farci comunicare in questo momento, facevano una ricerca disinteressata. E inoltre non prendere sul serio i sistemi di valutazione della ricerca esterna, quindi quelli fondati sui responsi di aziende private, sul conteggio delle citazioni e così via e così via. Perché non vanno presi sul serio? Perché nel momento in cui vengono usati come unità di misura, noi smettiamo di fare ricerca per scoprire i misteri della natura, per migliorare la nostra comprensione di noi stessi del mondo, per imparare a pensare, e cominciamo a fare ricerca per essere citati, quindi per diventare popolari, e popolari all'interno di database di proprietà privata che noi dobbiamo semplicemente acquistare, quindi cui dati non possiamo neppure controllare. Ecco, direi che l'essenziale è questo. Ecco, lei faceva appunto accenno al fatto che questa traduzione appunto abbia avuto una certa diffusione, che probabilmente riflette anche un po' un'insofferenza diffusa che serpeggia tra tutte le figure appunto che all'interno degli Atenei italiani fanno ricerca, che sicuramente percepiscono tutti i limiti di questo sistema. Mi chiedevo però appunto come poi concretamente si può provare a scardinarlo nel momento in cui questo modo di fare ricerca si fonda anche un po' su un ricatto, che è quello appunto che lei chiamava del pubblicare o morire, quindi per andare avanti sostanzialmente è necessario poi in un certo senso sottostare a tutti questi indicatori esterni e le altre cose che citava. Quindi mi chiedevo, questo è possibile, penso, solo se c'è una critica diciamo diffusa e un po' più radicata tra tutte queste figure di questo sistema, altrimenti forse diventa difficile un po' provare a diciamo a contrastare questo sistema. Allora, in questo momento è molto difficile, però il fatto stesso che questo documento abbia avuto questa attenzione sorprendente mostra che è possibile fare qualcosa. Per quale motivo è possibile fare qualcosa? Perché in realtà l'attuale sistema di valutazione della ricerca e di pubblicazione si basa e può funzionare soltanto nella misura in cui i ricercatori cooperano. Adesso è abbastanza ovvio che i ricercatori giovani all'inizio della carriera, quindi i precari, non sono in grado di cooperare se non in grado minimale. Ecco, i ricercatori che invece sono strutturati, cioè che hanno finalmente un posto fisso, possono fare molto di più. Ecco, io credo che che cosa possono fare? Ecco, per esempio possono scegliere di pubblicare ad accesso aperto anziché ad accesso chiuso. Il bollettino telematico di filosofia politica su cui è uscita la traduzione di questo documento, per esempio, una pubblicazione ad accesso aperto che esiste da molti anni e che addirittura ha permesso a parecchi giovani di fare carriera nell'accademia. Poi cosa possono fare ancora? Possono strutturare il loro insegnamento in maniera tale da rispettare gli studenti, quindi dicevo, non trattarli come consumatori che vanno ingozzati con manuali standardizzati, ma fargli corsi magari un pochino più difficili per fargli capire che la ricerca non è produrre output, ma è partecipare a processi, un risultato scientifico nella misura in cui è possibile dimostrare ogni suo passaggio, quindi partecipare al processo. Poi altre cose che si possono fare è fare quello che hanno fatto i colleghi che hanno scelto di boicottare, adesso per ragioni in primo luogo salariali, però si può riproporre di boicottare il sistema di valutazione della ricerca italiana, quindi la sottomissione all'ANVUR di quelli che brutalmente vengono chiamati i prodotti della ricerca. Adesso è qualche cosa di molto difficile e forse non ci farà vincere, ma ci condannerà a perdere con onore, però temo che siamo in una situazione in cui non si lavora per il breve termine, ma si lavora per il lungo termine. Se mi permette un paragone, soltanto 12 professori italiani nell'epoca in cui c'era una forma più pesante e più pericolosa di forma di scienza di Stato in Italia, vale a dire in epoca fascista, rifiutarono di giurare fedeltà al partito fascista, quindi accettarono di essere licenziati. Però questi 12 sono quelli che in qualche modo riscattarono e salvarono l'onore dell'università italiana. Adesso noi rischiamo molto meno, quindi è possibile che se prendiamo coscienza, se facciamo queste piccole azioni, il pregio del documento che appunto è un elenco prolisso e noioso però di piccole azioni che possiamo fare quotidianamente tutti noi, se prendiamo coscienza della situazione e facciamo queste piccole azioni, possiamo nel lungo termine, nel medio termine cambiare qualcosa, e beh nel lungo termine avere almeno la prospettiva, che non è particolarmente soddisfacente nell'immediato, ma nessuno vive nell'immediato, di essere dalla parte giusta dal punto di vista dei posteri. Vorrei essere più ottimista, ma in questo momento non posso esserlo. Beh, sicuramente diciamo condividiamo la prospettiva appunto di provare a insomma ragionare anche sul lungo termine. Tra l'altro lei ha anticipato una cosa che volevo chiederle, perché appunto nei mesi scorsi anche da questi microfoni abbiamo seguito la vicenda del boicottaggio della VQR, che come ricordava lei nasce principalmente per questioni salariali, però insomma almeno tra una parte dei suoi sostenitori portava avanti anche una critica appunto a questo sistema della valutazione. E quello che appunto le volevo chiedere, in parte ha già risposto, e se questo secondo lei può costituire appunto un buon precedente, un buon punto di partenza per quanto dicevamo prima. Sì, io credo proprio di sì. Credo proprio di sì, perché nonostante gli ostacoli che sono venuti soprattutto da chi governa l'università, che dovrebbe rispondere a chi lo ha eletto, invece sembra che risponda a entità più in alto, diciamo così, nonostante gli ostacoli e nonostante il fatto che i media mainstream l'abbiano per lo più ignorata, ecco, questa protesta è riuscita ad ottenere qualche effetto. Adesso sono effetti molto limitati, però in qualche modo si è dimostrato che è possibile fare qualche cosa. Ecco, però l'aspetto interessante del documento è che buona parte dei suggerimenti che il documento propone sono azioni che uno può fare nella sua attività quotidiana, quindi se ha paura a prendere posizione come hanno fatto i colleghi o a fare pubblicamente obiezione di coscienza come ho fatto io, può fare delle piccolissime azioni che tuttavia possono cambiare, o meglio, possono temperare il sistema, perché come dicevo prima, questo sistema funziona soltanto attraverso la nostra cooperazione. Appena noi cominciamo a mettere sassolini con gli ingranaggi, si blocca o funziona in maniera ancora più inefficiente dell'inefficienza che è già strutturata nel modo in cui è pensato. Va bene, io la ringrazio insomma per questo contributo e rimando sicuramente al testo integrale tradotto di questa carta per l'ineccellenza e al suo articolo che la apre, appunto si può trovare su Roars col titolo un antidoto al feticismo dell'eccellenza, la carta per l'ineccellenza, e appunto la ringraziamo ancora, magari torneremo a sentirci prossimamente su questi temi. Va bene, grazie a voi e arrivederci a tutti. Buona giornata, arrivederci. Altrettanto. Scaldo la penna con le mani per far scorrere l'inchiostro, storia del nostro domani, i finali non li conosco. Tu raccogli i fogli sparsi, metti i numeri alle pagine, sorridi mentre scrivi sulla luce del portatile. Forse non sai che tu sei tutta la mia musica di storia in super 8, senza l'occhio di Custurizza. Forse non sai come ti guardo quando sei distratta, il sole tra i capelli, fai disegni sulla giacca. Perderti e non perderti, scordarti e ricordarti, nel continuo riscoprirsi di cui i sogni sono fatti. Piccola ed enorme come l'acqua, non so contenerti e non voglio disperderti, e so che non aspetti. E se scrivo canzoni è perché spero che una ti racconti per davvero, per come ti vedo. Luce di un'alba infinita, speranza in questa Guernica, e i tuoi occhi mentre ascolti, e i giorni nostri e questa vita. Laying on a building wall, a quiet summer night, staring at your window just to see your shadow flash by. I'm not a vivid you, can touch your hair and don't know why. Please don't turn off the light, let me breathe into you just one more time. Quando non ci sei come se fossi senza ombra, e la gente mi circonda come un mare senza sponda. Quello che nasce è semplice, deve restare semplice. Ci penso e quel silenzio grida a 100.000 decibel. La penna sopra il foglio traccia elettrocardiogrammi tra il presente e i suoi drammi. Tu mi guardi e mi disarmi. Questo è il pericolo del fuoco che sai darmi. Non deve consumarsi, scaldarmi e non bruciarmi. Non ho nulla se non questo, un quaderno con dentro un testo. Sogni di rivoluzione, il mio nome su un manifesto. Questa vita è strana, 8 giorni a settimana, con le spine nel cuore come la canzone di Santana. Canta il mistero che tu ancora sembri avere, ed è un disegno di pensieri come sangue nelle arterie. Se il mondo parla troppo e quasi sempre non comunica, semplifichi oltre i miei limiti, mi dai la musica. Laying on a building wall, a quiet summer night, staring at your window just to see your shadow flash by. I'm not up there with you, can touch your hair and don't know why. Please don't turn off the light, let me breathe into you just one more time.

Questi sono numeri che raccontano il fenomeno di una crescente polarizzazione sociale, un effetto della crisi che da anni stiamo subendo e riscontrabile tra l'altro in molti altri ambiti della nostra quotidianità, oltre che quella accademica. Anni che all'interno dell'università si danno percorsi di lotta contro questa tendenza che si è stabilizzata a partire appunto dalla crisi e dalle politiche economiche di austerità che ne sono conseguite. La riforma dell'ISE e questa, il fatto che ci faccia sembrare tutte e tutti più ricchi rientra perfettamente in queste politiche economiche del governo. Anche quest'autunno diverse città italiane da nord a sud si sono mobilitate contro questo nuovo calcolo dell'ISE e tutto ciò che questa riforma avrebbe portato. A Torino, nello specifico, le richieste che gli studenti avevano avanzato all'università sono state quelle di ridefinire le soglie che danno diritto alle prestazioni sociali, perché è evidente che a causa dei nuovi parametri ne vengano esclusi proprio coloro che ne hanno maggiormente bisogno, e che l'università adeguasse le fasce contributive in base a questi nuovi parametri, se non altro appunto per garantire agli studenti di non pagare centinaia di euro in più, tasse già piuttosto elevate per dei servizi che praticamente inesistenti che l'università ha da offrirci. Sono queste richieste che, a seguito dei dati fornitici sull'extragettito che si è venuto a formare sia ad Unito che a Polito, parliamo infatti di 2,8 milioni di euro su una contribuzione totale di poco più di 70, e un extragettito appunto dovuto a delle tasse più elevate e dei più ricchi, ma soprattutto determinate dall'aumento degli studenti della fascia più alta. E appunto a seguito di questi dati non possiamo che rivendicare con ancora più forza le richieste che abbiamo avanzato in quest'anno accademico. The crack, gun packing, nickname Medina, made the scene as tote Maninas. From gym class to in glass, pass off a global. The only nigga with a mobile, can't you see like total? Getting larger in racing taste. Ain't no telling where this felon is heading, just in case. Keep a shell at the tip of your melon, clear the space. Your brain was a terrible thing to wait. I was more in my brain. Keep your mouth shut, babe. You know what I'm saying? Don't feed into it. If you feed into it, it'll never escalate. You know what I'm saying? I knew it wasn't true. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had two pair of leads. Besides the pinstripes and the gray, the one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm throwing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. They come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow, why you punch me in my face? Stay in your place. Run your position. They come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watch it. And hers clock it. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at their man eye. Big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty. Niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch. I was more chocolate than you know what I'm saying? But I wasn't more chocolate. If not, I was more chocolate. I'm a strong dude, yo. I know dude. Real strong, so when he was like, he got shot, I was just more like, again. You know what I'm saying? He always getting shot or shot at him. You know, this one again, make me do everything about it. It's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. I gotta stay on the positive. I want my people, gotta stay on the

11.43, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Prima di passare alla prossima diretta, proseguiamo con un po' di rassegna stampa e insomma, tenendo il discorso che faceva poco fa Anna, ci interessava insomma sottolineare anche come le tendenze che appunto rimarcavamo rispetto all'Università, al Politecnico di Torino, riflettano appunto quella che poi è una tendenza nazionale. Sempre in questi giorni, sempre sulla stampa, nella versione pro nazionale non locale, è uscito un articolo che fotografa appunto un po' lo stato dell'università italiana sul finire di questo anno accademico, che titola appunto in maniera abbastanza esemplificativa: l'università in declino, studenti in fuga e tasse più alte. Il dato con cui apre l'articolo è che appunto dal 2004 ad oggi sono 66.000 le matricole in meno, e che il crollo più sensibile appunto delle matricolazioni riguarda le università delle isole del sud. Quindi insomma si conferma questa tendenza anche a creare università di serie A e di serie B, che rifletta anche un po' i finanziamenti differenziati che il governo vorrebbe fare appunto tramite strumenti come quelli della valutazione degli atenei. Quindi per quanto poi ad esempio invece nell'Università di Torino quest'anno per la prima volta si sia registrato un leggero incremento nelle immatricolazioni rispetto agli anni scorsi, comunque il dato che prevale continua a essere quello di un progressivo abbandono degli studi universitari. Questo appunto innanzitutto per le questioni che ricordavamo, quindi i costi economici: da un lato un aumento costante delle tasse aggravato dalla vicenda dell'ISE, dall'altro tagli progressivi delle borse di studio che sono stati portati avanti a livello regionale, perché poi gli enti che se ne occupano appunto sono regionali. Qui a Torino insomma ne abbiamo avuto un esempio lampante negli anni scorsi. In questo senso il Piemonte è stato un po' una apripista nello smantellamento del diritto allo studio, che poi è proseguito un po' in tutta Italia. E dall'altro appunto anche una certa sfiducia verso il sistema universitario in sé, quindi su poi le possibilità che concretamente può offrire, quindi non solo costi altissimi ma poi di fatto una continua mortificazione poi del percorso di studi, perché difficilmente poi insomma si può ambire a fare qualcosa che coincida con i propri interessi. Quindi appunto volevamo solo aggiungere come rispetto al quadro che abbiamo dato sull'Università di Torino a livello nazionale sia assolutamente coerente, se non addirittura molto peggio nelle zone appunto del sud e delle isole. Comunque rimandiamo all'articolo che è uscito appunto in questi giorni sulla stampa online. Vi lasciamo ancora un po' di musica, poi passiamo alla prossima diretta. Giorno alla finestra, più tempo per focalizzare ciò che mi interessa. Ma lo scenario è così grigio che attiro negatività per tutto il pomeriggio. Ti sto pensando e non ho voglia di nasconderlo. La testa rifiuta lo studio, sarò costretto a impormelo. La gente esce, muore, rinasce, rimpiazza i vecchi amori che hanno nuove facce. E ogni partenza è una svista, tra le cose da fare rispettarti è il primo punto di sta lista. Ma questo treno si allontana e mi rattrista, perché c'ho seri dubbi che il mio amore per te finisca. E ti ricordi quella foto che ridere sul muro a confermare con le altre che devo vivere? Chiamano a tavola è già pronto, ripenso un po' a quando quest'estate ti raggiungerò. Boh. E quando un giorno tornerai vorrei rassicurarti, dirti che va tutto bene, ma ho la certezza che non servono parole, è il tempo che lo vuole, c'è il sole con nuvole nuove. E quando un giorno tornerai vorrò rassicurarti, dirti che va tutto bene, sai, quella certezza che allontana le parole, col tempo che si muove, ci porta via con sé ma non sappiamo dove. Le mani cercano altre mani, controllo le emozioni e la voce quando mi chiami, ma domani la distanza ripasserà a pesare, perché è un'età, sappiamo bene che non tornerà. Cerco di spolverare ciò che è vecchio, il volto sembra in frantumi tra i frammenti di uno specchio. Scrivo perché è parecchio che esco e che faccio tardi, e non c'ho voglia di giustificarmi se provano a licenziarmi. Più mi guardo negli occhi e più vorrei trovarmi, ma soffoco le urla, le mie orecchie sembrano una burla. Giochiamo un po' chi si realizza per primo, di il motivo se rimo è perché ancora mi sento bambino. Gli amici parlano di noi, le loro ipotesi affermano

surface the pen lands on. Doc Kirby's hands on. What's the beef? The coolie high code chiefs, high post techniques. I drape off poetic landscapes and shapes. Illustrate the paper space off the pens that paint. Then design what happened. National Geographic, the magic with tailor made status and plus flavor that's automatic. We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. Melancholy mundane, saute the hot flame. Big rings, fat chains, they all quest for the same. No name, huge fame, strictly new to the thing. We stay true to the game and never bring it to shame. We tight like dreadlocks, a red fox and ripple. We pass participles and smash the artists in you. The saga continues, this I won't get into. Cause there ain't enough bars to hold the drama that we've been through. Yo, we still the same with a little fame. A little change in the household name, but ain't too much change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from salt grains to season up my name. We entertain for a mutual game from close range. Steady aim, my drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mines, pay me by the hour. We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. Verbal Herman Munster, the word enhancer, sick of phony mobsters controlling the dance floor. I'm in dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. The taunt faces me bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. We're not falling, we take it back to the days of yes, yawning. We're holding on to what's golden. On the stage, I'm raging. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Activa, terca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad. 11.56, allora da questi microfoni in questa puntata di Parole Ribelli, insomma, ci fa anche piacere dare voce direttamente a alcuni, insomma, agli studenti che vivono tutti i giorni all'interno appunto di questa città, il suo sistema universitario, e rispetto poi soprattutto ad alcuni argomenti che abbiamo anche toccato precedentemente. Abbiamo quindi in diretta con noi Elena, una specializzanda di psicologia, che intanto salutiamo e ti chiediamo se ci senti. Ok, sento. Ok, ciao. Ecco, ciao. Appunto. E insomma, ci vuoi, tu adesso ti trovi nella situazione, come tanti, insomma, oltre a te, di doverti seguire un tirocinio senza rimborsi, nel mentre arrangiarti per trovare un lavoro, insomma. Ci vuoi raccontare un po' qual è il tuo percorso formativo e qual è la situazione che tu, come tanti altri, vivete ogni giorno? Allora, io fondamentalmente ho seguito un percorso di studi piuttosto lineare all'Università degli Studi di Torino. Col nuovo ordinamento dal 2008 ho svolto la 3+2 per la facoltà di psicologia, quindi ho preso una laurea triennale e poi una laurea magistrale. E in entrambi i casi mi è stato richiesto obbligatoriamente di svolgere un tirocinio. Nel caso della triennale si è trattato di circa 350 ore da svolgere presso un servizio pubblico entro appunto la laurea, e invece per la magistrale e poi per poter accedere all'esame di Stato mi è stato richiesto di svolgere più di 1000 ore continuative, quindi circa un anno di lavoro di servizio vero e proprio, con una media oraria tra le 6 e le 7 ore giornaliere. E in entrambi i casi ovviamente con nessun rimborso spese, nessuna retribuzione prevista. E la cosa più frustrante e umiliante in realtà arriva poi adesso, nel momento in cui io ho più di 7 anni che studio per diventare prima psicologa, attualmente sto di fatto svolgendo una scuola per diventare psicoterapeuta, e dopo 7 anni mi ritrovo a dover svolgere un ennesimo tirocinio di 350 ore annuali circa, per poter poi appunto essere abilitata anche a essere psicoterapeuta. Questo succede di nuovo entro un servizio pubblico, dove di fatto tutti gli psicologi e psicoterapeuti che vengono licenziati non vengono rimpiazzati in alcun modo, e in cui ogni tutor di riferimento, che ormai per lo più si può essere riconosciuto in un barone di turno, in quanto i terapeuti referenti per i tirocini sono ormai molto pochi, e per lo più a fine carriera, quindi hanno di solito tra i 50 e i 60 anni, di fatto richiedono a noi da un lato di svolgere praticamente il lavoro psicologico all'interno dei servizi, anche in casi molto gravi, commandati dal Tribunale dei Minori, casi di abusi, maltrattamenti e quant'altro, dall'altro però non abbiamo nessun riconoscimento né economico né sociale o lavorativo, in quanto al termine del nostro tirocinio veniamo allegramente rispediti a casa e al nostro posto c'è una fila abbondante di persone che molto spesso pregano per essere inserite in questo circolo vizioso senza fine, di fatto. E questo è particolarmente frustrante, legato al fatto che per potersi permettere una scuola di psicoterapia bisogna avere un lavoro, perché le rette sono annuali, sono molto alte, tra i 4.000 e i 5.000 euro per 4 anni totali, quindi facendo il calcolo si può capire che impegno economico sia, e chi non è benestante di famiglia deve ovviamente tirarsi sulle maniche e trovare un modo per poter pagarsela, e questo vuol dire conciliare di fatto una scuola, un tirocinio e un lavoro part time, senza aver, ad esempio nel mio caso, ma come quello di molti altri che fanno il mio percorso, di non avere ancora un'indipendenza economica, quindi potersi pagare un affitto alla venerante età di 27 anni, quindi nell'insieme direi che è piuttosto frustrante, ecco. Sì, diciamo che rispetto soprattutto a percorsi di studi come il tuo, chiaramente la parte di specializzazione di tirocinio dovrebbe essere una parte fondamentale, ecco, del percorso, e che però in questa situazione o alcune persone si trovano direttamente a dover rinunciare appunto a proseguire lungo questa strada, oppure chi riesce a farlo, appunto come dicevi, lo fa al prezzo poi di doversi un po' barcamenare tra mille cose, quindi non avere neanche la serenità. È un dettaglio non da poco che in effetti non ho citato fino ad ora, è che tutte le ore che noi svolgiamo come lavoro clinico in ASL individualmente vengono caricate sul tariffario dei nostri tutor, e quindi non solo noi non siamo retribuiti né abbiamo nessun tipo di rimborso spese, ma a questo si aggiunge che di fatto il nostro lavoro viene retribuito ai nostri tutor, che già peraltro prendono una percentuale maggiorata per il solo fatto di accettare i tirocinanti, e in media, nel mio caso ad esempio, la mia tutor di riferimento ha in tutto 6 tirocinanti, di cui 3 magistrali, di fatto scribacchini, che le aprono e chiudono le porte o le finestre e verbalizzano ogni parola che viene emessa durante le sedute, e 3 specializzandi che invece fanno poi davvero il lavoro un po' più in prima linea con i pazienti. E questo io ho riscontrato essere veramente diffuso nel mio ambito, ma non solo, ci sono anche altri percorsi formativi che implicano appunto delle conseguenze simili, quindi penso che sia un fenomeno davvero preoccupante da questo punto di vista, perché appunto dopo quasi 10 anni di studi e pratica ancora ti senti trattato come una persona assolutamente poco in grado di agire e non vieni riconosciuta, ma allo stesso tempo ti viene sobbarcato tutta una serie di lavoro anche molto impegnativo senza aver nessun tipo di riconoscimento, insomma. Certo, ma senti Elena, ma tu vedi intorno a te, insomma, che una situazione tipo la tua, ma che vivono anche tanti altri, insomma, crei un'insofferenza o insomma il modo di affrontare queste cose, poi ciascuno insomma prova a stare a galla come può e insomma non esce, non fa uscire insomma poi la propria frustrazione, o non si riesce comunque a dare una forma. Sì, questo in assoluto è il problema principale. Io nell'arco degli ultimi anni ho visto dei tentativi di colleghi, professionisti magari giovani ma già con uno studio avviati e quant'altro, di proporre delle minime retribuzioni per i tirocini, ma questa cosa non è mai ovviamente andata in porto. Un altro problema e fonte di grande sofferenza è che bisogna calcolare che alcune coetanee nostre di fatto magari tra i 25 e i 30 anni decidono magari di mettere su una famiglia piuttosto che di avere dei figli, e questa cosa le fa penare ulteriormente perché tutto l'iter si rallenta, loro non vengono poi assunte di fatto da nessuna parte, esattamente riscontrando gli stessi problemi che riscontra una donna con un figlio piccolo che cerca lavoro, e paradossalmente questo avviene anche per la ricerca di un tirocinio dove sei solamente sfruttato. Mm-hmm. E quindi ad esempio è fresco il caso di una mia compagna di corso che con un bimbo piccolo non è riuscita a coprire tutte le ore di tirocinio necessarie, adesso viene spedita in una comunità X a caso a fare neanche l'educatrice tra un po', pur di coprire queste ore per avere appunto questo titolo a livello formale. E quindi poi ovviamente nei casi individuali si possono riscontrare varie origini di sofferenze diverse, e manca di sicuro un sentirsi insieme ad affrontare un problema che poi comunque è davvero molto diffuso e comune. Va bene Elena, noi ti ringraziamo di questa tua testimonianza e di questa chiacchierata insomma che hai voluto fare con noi. E ti salutiamo insomma in bocca al lupo. Credi, grazie a voi. Ciao. Ciao, buona giornata, ciao. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me, why are we so blind? And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Smell the corpse before the cat ate my face. I used to floss the albatross like daddy came with the chain. I'm trying to jettison the ballast with the hazardous waste. The kid is comfortably numb, routine a tedious crutch. Steep in a self-imposed Stockholm and Lima in flux. Maybe an occupation popular with demons and ducks. Made any mingling akin to being seasoned and stuffed. It's a theater of jumping jellyfish, jealous little sycophants. Miserable and flimsy from the skippies to the pissy pants. Each one separately convinced they're sketching with Da Vinci's hands. Delusion turning communication a prison camp. You fucking dorks ain't a threat to the cause. There ain't a lesson we can learn from the ostensibly lost. I think it's funny when defendants from identical haunts step out the tempest, a measure of what the spectrum involves. Maybe no one cares. Party over here, I'll be over there. At the root of the scene, it meant a lot to feel the fugitive community breathe. Maybe the sentiment allows us to be truly naive. I know some shit about your heroes that you wouldn't believe. I think we're all a bunch of weirdos on a quest to belong. The song's a echolocation up in impregnable fog. That's why it's odd to see a pile of imperfections and flaws. Ascend a pedestal to patronize the rest of the cards in a mess of obnoxious fantasy, posturing and pageantry. I ain't even mad, I'm impressed. Shit, it's babbling. God almighty, chopper knife, beat tower, the piano keys. Play your own dirge on the way to surfing Maggot Beach. You fucking dorks ain't a source of the art. You can't be cooler than the corners where you source all your parts. The poker face, all it takes a couple sordid remarks. We let the manicore out, we make the sorcery bark. Life is so unfair. Party over here, I'll be over there. We'll be right back. My mama's so afraid of me. Someone press the panic button, nothing you can say to me. Guerrilla style, throwing missiles in your house. Pissing mouths, rob a child, lose your mind, rip it out. Start a fight, take a couple shots, you can pass the pipe. Everybody know there ain't no afterlife, laughing halfway through the traffic light. If you got a problem, let them lose my mind. Suicidal motherfucker, take it two at a time. Step in line, I kill you while I'm doing a vine. Look at the difference, the benefit to get. Deep pocket pride, five will win forever. Come drink with the king if you ain't scared of the weather. Single moms in strip clubs, punani tsunami. Came in the cab, I'm about to leave in a Bugatti. I'm only leaving when the bouncer's fighting. Body's moving, who's the dudes that's in the shooting? Terrorist music, terrorist music. Panic, panic, panic, panic. Ape shit. Dummy, lose your mind, go ape shit. I think I'm going blind. Ape shit. Break your neck, break your spine. Ape shit. Again, again. Ape shit. Dummy, lose your mind, go ape shit. I think I'm going blind. Ape shit. Break your neck, break your spine. Ape shit. Mezzogiorno e un quarto, continuiamo con gli approfondimenti di questa mattina, ci spostiamo in Francia, stiamo infatti continuando a seguire tutti, insomma, tutto quello che succede oltre Alpe dai microfoni di Parole Ribelli. Ieri c'è stata a Parigi e anche in altre città della Francia questo sciopero generale che veramente sembra aver bloccato il paese. Si parla di più di un milione di persone in piazza, si parla di diversi feriti tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Abbiamo avuto notizie anche di un manifestante quasi in fin di vita. Comunque abbiamo con noi Martina, come tutti i mercoledì, la nostra corrispondente preferita. Ciao Marti, ci senti? Ciao, sì, mi sento. Allora, ci vuoi raccontare un po' di questa giornata di ieri? Sì, allora, appunto, ieri è stato un corteo con una partecipazione, diciamo, la più importante dopo questi tre mesi di mobilitazione, perché appunto a Parigi ha visto un milione di persone, secondo i sindacati, che hanno preso parte appunto al corteo, che è partito da Place d'Italie per raggiungere les Invalides, e diciamo che appunto nel momento in cui la testa del corteo era arrivata al fondo del percorso, ancora la coda doveva partire, diciamo, dal punto di partenza. È stato, diciamo, un corteo complicato e molto determinato, nonostante appunto i tentativi da parte della polizia continui di dividere e fratturare il corteo, con un particolare accanimento appunto contro la testa del corteo, che vedeva però al suo interno, diciamo, più di 10.000 persone. E diciamo che è un po' la particolarità di tutte le manifestazioni che si sono susseguite in questi tre mesi, che appunto dall'inizio c'è stato questo tentativo di superare il cordone, diciamo, delle teste sindacali, del servizio d'ordine sindacale, per prendere la testa. E si è visto appunto dall'inizio delle mobilitazioni questo tentativo, che poi è diventato una vera e propria una vera e propria particolarità, in particolare appunto a Parigi, ma non solo a Parigi, perché in tutte le altre città francesi appunto questo spezzone ogni volta diventava più partecipato e vedeva al suo interno appunto dai giovani, gli studenti medi, che hanno poi un po' determinato dall'inizio delle mobilitazioni le varie manifestazioni, ma poi appunto mano a mano ha raccolto al suo interno tutti coloro che, diciamo, non si riconoscevano nello spezzone sindacale, quindi dagli studenti agli universitari, ai precari, ma anche da persone che fanno parte di sindacati, ma appunto delle basi sindacali, ai vari settori di lavoratori in lotta. Ieri appunto dalla partenza diciamo che ci sono state dall'inizio violente cariche da parte della polizia con corpo a corpo, ma anche lancio di lacrimogeni, di granate, di flashball e diciamo tutto il dispiegamento di tutte le armi in loro possesso per tentare appunto di dividere tutto lungo il percorso la testa dal resto del corteo. Nonostante ciò, appunto, la determinazione da parte della testa ha fatto sì che il corteo procedesse, nonostante appunto ad ogni incrocio ci fossero scontri con la polizia. In particolare un momento di violenti scontri è stato all'altezza di Montparnasse, quindi diciamo verso la seconda metà del percorso della manifestazione, in cui appunto a quel momento all'interno del corteo si è anche inserito, diciamo, sono inseriti anche gli idranti, che quindi oltre ai lacrimogeni hanno attaccato i manifestanti, ma dall'altra parte la risposta è stata comunque determinata. Appunto, come dicevi tu, ci sono stati molti feriti, in particolare appunto un ferito grave che ha ricevuto una granata in pancia e appunto in fin di vita, e appunto nonostante la presenza di vari gruppi che si sono presi carico, diciamo, di essere un po' gli infermieri, di appunto aiutare i manifestanti feriti che si sono appunto auto-organizzati in tutto questo periodo, la polizia ovviamente continua ad attaccare anche questi gruppi nel momento in cui cercavano di aiutare i feriti, e durante tutto il corteo poi si sono susseguiti anche vari arresti e diciamo il bilancio finale si dice un 58 fermi, 40 feriti appunto. Verso la fine diciamo che la testa del corteo è arrivata nella piazza finale, appunto Les Invalides, e a quel punto però la testa era spezzata dai sindacati, appunto perché si è inserito l'idrante che ha appunto accompagnato, diciamo, i manifestanti fino all'arrivo, dove poi sono continuati appunto gli scontri sulla piazza, proprio perché la polizia tentava di impedire al resto del corteo di arrivare a raggiungere la piazza finale. E niente, appunto alla fine diciamo che si è risolto appunto con ancora momenti di scontri, appunto con l'utilizzo di idranti, lacrimogeni sulla piazza di Les Invalides, e i manifestanti mano a mano sono riusciti a uscire dalla piazza, che era totalmente, diciamo, chiusa dalle griglie e dai vari cordoni di polizia. C'è stato un attacco della polizia anche sui manifestanti che cercavano semplicemente di uscire dalla piazza, infatti che tra l'altro si trovava parallelamente appunto alla Senna, e quindi ci sono stati appunto dei momenti in cui i manifestanti sono calati sulla banchina della Senna per riuscire a uscire dalla piazza, e appunto mano a mano poi si è riuscito a uscire, e anche perché contemporaneamente c'erano altri appuntamenti che sono continuati in serata, e in particolare c'è stato un appuntamento davanti al Senato che ha visto poi la partenza di un corteo spontaneo nel quartiere Latino, E poi ancora la sera su Place de la République è partito appunto un altro corteo spontaneo che ha visto appunto la partecipazione di un migliaio di persone e che è riuscito a fare appunto un percorso fino a Belleville, dove poi però ci sono state vari altri arresti da parte della BAC che andava a cercare i manifestanti all'interno dei ristoranti e niente, appunto, diciamo che la giornata si è poi conclusa così in tarda serata. Ma senti Marti, dopo questi, insomma, questi tre mesi di mobilitazione che sembrano essere un po' culminati, no? In una giornata grossa, lunga, partecipata come quella di ieri, come ti immagini tu appunto i prossimi giorni e prossime giornate di mobilitazione? Allora, diciamo che da un lato forse vedere questa grandissima partecipazione al corteo di ieri potrebbe sembrare un po' il culmine finale di tutta la mobilitazione, dall'altro però in realtà continuano gli appelli per continuare la mobilitazione, in particolare in seguito alla due giorni che è stata organizzata appunto all'Università di Nanterre questo weekend, sono uscite altre date per continuare appunto la mobilitazione nelle settimane a venire. In particolare con azioni contro la repressione e altre giornate contro la legge sul lavoro, quindi verso il 18 giugno, 25 giugno fino ad arrivare a luglio ci sono ancora date appunto lanciate in questo senso per continuare la mobilitazione. E appunto da questi due giorni è uscita anche l'intenzione assolutamente di continuare poi al rientro a settembre con appunto lanciando altri momenti di mobilitazione. Dopodiché bisogna vedere appunto in questo momento in particolare da parte dei sindacati che cosa succederà e poi però sicuramente un altro elemento da tenere in considerazione è anche sempre la presenza degli europei che appunto andranno avanti fino al 10 di luglio e anche in questo senso continuano ad esserci altre iniziative per appunto bloccare e sabotare gli europei. Ok, senti, allora noi ti ringraziamo di averci insomma un po' fatto un resoconto della giornata di ieri e torneremo sicuramente a sentirci su qui a Parole Ribelli e buona giornata. Va bene, grazie ciao. A voi. Ciao, ciao. Ciao. All my bitches flavor. That part, that part, that part, that part, ayy. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back. Ci arriva in questo momento al 346-667-3263 una segnalazione. Ci scrivono cisti controllori al capolinea del 10 al rondò della Forca, surfa liberi. Tryna make that play. Rich or poor, nigga, choose your fave. Style on top of style, nigga. 5 years of being rich, nigga. Drove beamers down feed, nigga. Push Porsches down Broadway. I been diving in different halls, nigga. Got a chain that's worth the rolls, nigga. Got an engine back with the top in it. Nigga driving it like it's a bomb in it. Me no conversate with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. Yeah. That part. That part. That part. That part. Ay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. That part. Beggars can't be choosers. Bitches ain't Chipotle. Nigga with an attitude. I feel like O'Shea. Walking, living legend. Man, I feel like Kobe. Kobe. I just left the strip club. Got some glitter on me. Wifey be gonna kill me, she the female OJ. Y'all don't feel me, man, this ain't okay. Four seasons, take a shower, new clothes, I'm reloaded. Rich niggas still eating catfish. That bitch ain't really bad, that's a catfish. If I walk up out of Sasquatch, how the paparazzi doing backflips? If I lay you down on the mattress, blow the back out to your backless. Think we already established. She just got them done, bra strapless. Yeah. Okay, okay, okay, okay. That part. Beggars can't be choosers, bitches ain't your partner. That part. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. That part, that part, that part, that part, ayy. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back and poppin'. Tell that ugly bitch to move away, I need more options. Broke then fix your pockets, all I do is profit. Few million made and still ain't changed. That part. Me, my girl got matching bling. That part. I'ma get so blowed, I'ma lose my brain. That part. Me and XO, only thing go straight. Need me a bitch that'll go both ways. Style on top of style, nigga. Since a youngin', I wanted the ball, nigga. Had a pistol in my drawers, nigga. When I was broke, I had the sauce, nigga. Got a Chevy beside the side on it. Hundred spokes to dang the dangs on it. Got a chopper to stand and fire to. I put your homies down beside you. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. I'm wondering where the day went. The clouds had me shrouded in craper. I'm still out pounding the pavement. Drowning the herb, I'm pounding rounds of brown paper. Founded a label, now I'm drowning in paper. Went out of cool, I'm down with found an escape from work. And I love it, cause that's what your hard work gets you. My heart bursts through my chest, I'm rescued. So forget what the rest, you were blessed to do it to a who were the best. To do it to what I love. Look at it go. Just do how I like to do. gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway, you're Myrtle, hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens placing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. This new Mav is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics. 12:34, ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Parole Ribelli. Parliamo adesso dell'incontro che c'è stato tra il ministro dell'istruzione Giannini e il rettore del Politecnico di Torino, la nostra città, Marco Gilli, in Israele negli ultimi giorni. Giannini e Gilli infatti partecipano alla delegazione che ha visitato l'Ateneo di Haifa, che per l'appunto un gruppo di accademici italiani ha tentato di boicottare negli ultimi mesi. Con noi Jasmine del Progetto Palestina. Ciao Jasmine. Ciao a tutti. Ecco, volevamo chiederti di raccontarci un po' quello che è stato il boicottaggio da parte appunto di una serie di studenti, docenti e ricercatori universitari che appunto accusano il Technion di portare avanti delle ricerche che danneggiano il popolo palestinese e quindi le richieste che sono state avanzate perché l'Ateneo torinese e altre realtà italiane smettessero e chiudessero un po' di avere rapporti con l'Università di Haifa. Quindi volevamo appunto chiederti di raccontarci un po' cosa è stato il boicottaggio negli ultimi mesi e le motivazioni di questo boicottaggio. Sì. All'inizio di quest'anno è uscito un appello da parte di professori, ricercatori accademici in generale in Italia, più di 300 firme, che è un risultato importante anche rispetto ad altri stati europei nel mondo, perché venisse boicottata l'Università di Haifa, il Technion, che è un politecnico, quindi fa ricerche scientifiche. Quindi è stata utilizzata come obiettivo principale di questa campagna una università in particolare, con lo scopo di interrompere tutte le ricerche congiunte con questa università, fare degli scambi con questa università e quindi qualsiasi tipo di rapporto istituzionale, è chiaro, non con i singoli che lavorano nel Technion o i singoli studenti. È stato scelto il Technion proprio perché è uno dei maggiori politecnici e università israeliane, molto rinomata a livello internazionale, ha diversi accordi con altre università italiane come quella di Cagliari, Firenze, Perugia, anche Milano e Roma, e poi perché le ricerche che vengono compiute dall'università di Haifa spesso vengono utilizzate per motivi militari, Per esempio, una delle ricerche che sono state fatte sono quelle per il bulldozer Caterpillar D9 o per costruire dei sistemi per i muri e quindi di controllo. E inoltre, oltre a fare queste ricerche militari, comunque l'Università di Haifa, così come quasi tutte le università israeliane, dà dei privilegi agli studenti israeliani che hanno fatto il servizio militare o che lo faranno, quindi una sorta di crediti in più o di corsi particolari per chi vorrà far parte poi di alcune industrie militari, tipo la Elbit, l'Elbit System, che è una delle maggiori in Israele. Quindi è stato scelto questo obiettivo con l'intento di boicottarlo fino a quando non verranno rispettati i tre principi base del movimento BDS, cioè il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che è partito dalla società civile palestinese nel 2006. I tre punti base sono il diritto al ritorno, il diritto all'uguaglianza e alla libertà, quindi sarebbe fine dell'occupazione, uguaglianza, diritti per tutti. Nello stesso appello che hanno lanciato gli accademici italiani, c'è stata la richiesta agli studenti universitari e a tutte le realtà italiane di fare in modo che questo appello venisse diffuso e avesse anche delle conseguenze effettive e pratiche. Quindi il mese successivo ci siamo mossi sia a Torino che a Cagliari per portare avanti questo appello. In quanto studenti, ci siamo riuniti anche con altre realtà della città, in particolare a Torino, o anche altri singoli, per portare avanti questa campagna. E il 3 marzo c'è stata l'assemblea ufficiale all'università in cui ci si impegnava a portarla avanti, e poi da lì una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema, per informare, sia con dei cineforum, abbiamo fatto dei cineforum alla Cavallerizza, o anche delle conferenze, sia sulla Nakba, ad esempio, ma anche sull'occupazione. Abbiamo invitato anche un'avvocatessa palestinese a parlare del problema dei profughi a livello giuridico e anche della confisca delle terre. Adesso stiamo pensando a come portare avanti la campagna il prossimo anno, quali azioni fare, anche in vista del fatto che finora abbiamo avuto a volte dei problemi per quanto riguardasse il permesso delle aule, quindi a volte non ci hanno autorizzato le aule per poter parlare di Palestina, ad esempio è successo per la Nakba oppure per l'assemblea sul Technion o la conferenza al Politecnico, sempre sugli accordi tra il Politecnico e l'Università di Haifa, in vista anche di quello che dell'implementazione che ci sarà il prossimo anno probabilmente di questi accordi, perché questi accordi probabilmente non prevedevano dei punti specifici, ma erano soltanto degli accordi politici tra il nostro Presidente del Consiglio e Netanyahu. Adesso invece con la ministra Di Giannini in Israele dei 50 accademici italiani probabilmente invece metteranno su carta in che cosa consisteranno questi accordi e li rafforzeranno, quindi dovremmo essere più capaci e più presenti il prossimo anno all'università per contrastare queste iniziative che servono non soltanto a livello scientifico di continuare la ricerca, ma servono per per dare un'immagine di Israele come uno Stato che a livello tecnologico e scientifico è molto avanti rispetto ad altri, e quindi è indispensabile lavorare con loro, con una sorta di discorso per cui l'università è slegata dallo Stato di cui fa parte, quando invece l'università è finanziata dallo Stato, spesso rappresenta lo Stato stesso, o ne rappresenta anche l'ideologia. Per esempio l'università di Haifa è nata prima ancora dello Stato di Israele con un intento sionista, quindi molte più motivazioni per cui portare avanti questa campagna di boicottaggio, ecco. Perfetto. Negli ultimi mesi sono state tante, come hai detto tu, i momenti di confronto e di boicottaggio a questo legame tra l'università italiana e quella israeliana, per tutte le motivazioni che ci hai appena elencato. Abbiamo visto mobilitazioni a Torino, come in altre città d'Italia, che sicuramente hanno contribuito alla necessità di fare questo incontro che, come si legge da vari articoli di giornali locali e anche nazionali, è stato necessario per rinsaldare un po' i rapporti, perché è evidente che questa lotta abbia dato i suoi frutti. Jasmine, noi ti ringraziamo, ti ringraziamo per questo contributo, sperando appunto di sentirci presto, perché come hai detto tu, è necessario continuare a portare avanti questi. Sì, ultima cosa che volevo dire. Dici. È che uno degli esponenti maggiori del movimento di boicottaggio di cimento di Israele, Omar Barghouti, uno delle persone che si muovevano più spesso in Europa per parlare appunto di boicottaggio e sensibilizzare sul tema, gli è stato negato da parte di Israele il titolo di viaggio, per cui non potrà viaggiare più per parlare di boicottaggio. Secondo me questo indice del fatto che il movimento in sé, come pratica politica e di resistenza, può avere un impatto effettivo sull'opinione pubblica per tanti motivi, i più vari, e lo stesso Israele sta vedendo il movimento di boicottaggio assieme all'Iran come i suoi maggiori nemici. Quindi credo che stiamo facendo la scelta giusta nell'utilizzare questa pratica di lotta, soprattutto quando viviamo al di fuori della Palestina. Quindi sì, assolutamente d'accordo, e ci avviciniamo alla chiusura, quindi ti salutiamo, ti ringraziamo e grazie, speriamo di poterci sentire presto. Ciao. Ciao. Alla prossima. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on. Like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either touch this. You can't touch this. Allora sono le 12.47, abbiamo sottratto un paio di minuti al GR, quindi ci prepariamo a salutarvi, ci risentiamo come sempre mercoledì prossimo, rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, un saluto e un augurio di buona giornata da Francesca, Anna e Costanza, e un saluto anche dalla nostra DJ che ci accompagna in tutte le nostre puntate, silenziosamente. DJ Silenzio. Can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, 'cause you know you can't.